bisogna distinguere tra costo del lavoro e salario. Quello che noi diciamo è che in un paese come l'Italia il costo del lavoro è troppo alto per ragioni fiscali. Troppe tasse, cuneo fiscale, chiamiamolo come vogliamo. E di previdenza, certo, il cuneo fiscale. Ed è molto diversa la questione dei salari che vanno in tasca ai lavoratori. E poi in Italia c'è un altro problema che sta dietro il costo del lavoro troppo alto, che è la bassa produttività, che è da lungo tempo un problema che richiede come soluzione più innovazione, più efficienza e più investimenti in organizzazione. Quindi sono elementi di fondo, elementi strutturali che stanno dietro questo costo del lavoro troppo alto che si ripercuote in una scarsa competitività delle merci italiane.